durante il mio intervento in assemblea, e credo che risponda a una logica di coerenza, quelle che sono state delle riflessioni che ho svolto sui possibili candidati, le ho fatte a Roma un paio di settimane fa, e per coerenza credo che sia anche giusto, voglio dire, su una persona che io non ritenevo idonea ad occupare la poltrona di Presidente federale, non abbia me in Consiglio federale. Da questo punto di vista io sono contento di questo, ho tolto la mia disponibilità. Di fatto tra poco ci sarà una riunione dei Notav in cui si deciderà il da farsi. Allora, dal giallo della maglia di Nibali al giallo banana. A parte il fatto che io sto con Optippo Ba tutta la vita, ma tutta la vita proprio, ci sono, abbiamo detto, della inchiesta della FIFA che invita la Federcalcio ad aprire un'inchiesta, a fare chiarezza su commenti razzisti da parte di uno dei candidati alla presidenza. Poi c'è la banana, ma c'è anche il pedigree. Mi ha ricordato prima il file che deve, o tipo Bach, che prima mangiava le banane, deve non solo presentare il curriculum, ma anche il pedigree. Ciao Maurizio Crosetti. Buongiorno, mamma mia, tristezza però, che ridere, virgola, che tristezza. Sì, no, per una stagione, Maurizio, e noi ne abbiamo parlato un miliardo di volte, senza grande piacere peraltro di parlare di questi argomenti, per una stagione ci hanno fatto una testa così sugli insulti razzisti che piovevano dalle curve, sulle discriminazioni più o meno territoriali. Adesso, se non chiudono la curva di Tavecchio, io non parlo più di curve chiuse, ho deciso questo. Non parlerò mai più di curve chiuse. Ma assolutamente, abbiamo parlato di DASPO, di inaccettabilità, di personaggi che non possono stare in un consesso civile, e ci riferivamo a tifosi, a qualche volta anche a giocatori, ad allenatori che ogni tanto scivolano su una buccia di banana non così grande come quella di Tavecchio, e adesso stiamo ancora a discutere nel giorno in cui tra l'altro la FIFA, tra virgolette, senza commissaria quasi la FIGC, chiede conto, invita, ricorda che sul razzismo non si transige, non si tratta. Due società, una ha preso le distanze per fortuna, la Fiorentina, l'altra quasi della Sampdoria. Sì, l'altra è Zamparini che dice, l'attacco a Carlo Tavecchio per una frase stupida e demagogia pura, una strumentalizzazione all'italiana. Ma quale razzista? Io lo conosco da 30 anni e non lo è affatto. È schifoso, dice Zamparini, come le persone vengano lapidate per niente. È una vergogna, la FIFA è un organismo che andrebbe sciolto, bisogna indagare sulla FIFA altro che Tavecchio. Ma sì, ma questi sono i personaggi che hanno espresso Tavecchio, che hanno ridotto il calcio come ridotto, insomma, sembra che facciamo sempre i tromboni a ripetere sempre le stesse cose, ma Tavecchio è l'espressione di uno schifo generalizzato, generale, di una confraternita di marchettari, di gente che pensa soltanto agli affari propri, di personaggi a cui non interessa nulla dello sport base, dell'etica sportiva, dei valori, paroloni, ci giudicano dei demagoghi, dei retorici, insomma, però è questo il momento di rifar tutto. Cioè, se una cosa del genere non serve come occasione per dare aria alle stanze, tirar giù dalle finestre il vecchio, metterlo nei sacchi della spazzatura, fare un bel fiocco, portarlo nella discarica, non lo faremo mai più, e questo è il momento. È un momento che passerà in vano e lo sappiamo benissimo. Ecco che è arrivato anche il mio compagno di giochi, Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Come va? Tutto bene? Sì, mi devi spiegare qual è la differenza etimologica tra il non esistono negri italiani oppure Vesuvio lavali col fuoco e Optippo Ba mangiava banane in Italia, ora nella Lazio è e deve presentare il pedigree. Non il pedigree. No, ma guarda, stavo sentendo Crosetti che l'ha toccata piano, ma ha ragione. Sì. Cioè, io, nessuno di noi sa al 100% quello che potrebbe dare Tavecchio come presidente piuttosto che Albertini, e nessuno di noi credo abbia nessun interesse ad appoggiare una candidatura piuttosto che l'altra. Però l'inizio è pessimo, l'inizio è drammatico, è una cosa allucinante. Oggi vedevo, insomma, gli exit poll, no? Con il 32% per Albertini, il 68% per Tavecchio, e praticamente tutti tranne Roma, Juve e Fiorentina, tutti i voti per Albertini sono voti di atleti, sono i voti degli atleti, e questo mi fa abbastanza pensare, no? Cioè, alla fine chi è stato in campo, chi ha vissuto la cultura del campo, chi si è relazionato, chi, fa il pallone, chi gioca a pallone è da una parte, e di là c'è tutto il mondo dei dirigenti sportivi, che per carità non è che sia da buttare, perché sì, non è che fare il dirigente sia una cosa brutta. Io so, Piero, ma devi considerare anche, un conto sono parolacce private, come non posso dimenticare quelle di un giorno di Paolo Berlusconi, andiamo a vedere il segreto di famiglia riferito a Balotelli, un altro conto sono parole di un candidato a presidenza federale, un ruolo istituzionale pubblico, pronunciate da un palco in una circostanza ufficiale. Quindi questo non è da sottovalutare. Io non credo che De Vecchio sia che Tavecchio sia razzista, non lo credo. Io non lo credo. Non lo penso neanche io, penso semplicemente però che una persona che comincia nel giorno più importante della sua carriera, dopo una vita abbastanza anonima, rispettabile ma anonima, da presidente della Lega Dilettanti, fa il discorso della vita e dice una cosa del genere, e neanche si accorge subito che preso la no, che è scivolato quantomeno sulla borsa di mano, quantomeno dal punto di vista diciamo dell'efficacia dell'oratore, mi sembra un problema, al di là di tutto quello che c'è dietro e che c'è sotto. Quindi siamo di fronte veramente a una situazione allucinante, e poi c'è un problema che può sembrare, se vuoi, demagogico, ma noi siamo in un paese nel quale difendiamo giustamente le squalifiche, i provvedimenti, abbiamo lo sdegno tutte le volte che risponde, tutte le volte che i tifosi o delle frange dei tifosi dicono queste cose. Con che faccia possiamo parlare a questa gente e dire che è giusta la squalifica di una curva? Ma appunto, è giusto il provvedimento che ho fatto di qualcuno, che ho detto prima, è quello che ho detto prima a Crosetti. L'anno prossimo non ne parleremo più di curve chiuse se Tavecchio sarà presidente federale, perché vuol dire che ci stiamo prendendo per il culo tutti quanti insieme, per mano. Luca da Napoli, buongiorno. Salve. Dica. Allora, a proposito della Federazione Calcio, vorrei sottoporre alla vostra attenzione una semplicissima considerazione. Io credo che sia uno specchio della realtà nazionale attuale, generale. E quindi non credo che ci si possa aspettare dai dirigenti calcistici una qualità nettamente superiore alla mediocrità assoluta che impera nel paese. Quindi ci arrendiamo? No, non ci arrendiamo affatto. Infatti questa era la parte, diciamo, polemica. Minimamente propositiva potrebbe essere questa. Io credo che per dare una svolta alla situazione, come giustamente osservava Crosetti poc'anzi, ci sia solo una possibilità. Credo che Malagò sia un personaggio con tutti gli interessi che rappresenta, però mi sembra un personaggio che ha un senso del pragmatismo maggiore di tutti questi velleitari dirigenti. Dovrebbero nominare un commissario, e faccio anche lì, diciamo, faccio presente il tipo di personaggio che a me piacerebbe: una persona con una cultura calcistica internazionale a tutto tondo, una persona o come Arrigo Sacchi o come Luca Vialli. Vi saluto. Grazie Luca, poi per fare i nomi c'è tempo, certamente spetta sono d'accordo, a Malagò magari trovare una soluzione. D'altra parte lui stesso si era presentato alla presidenza del CONI come l'uomo delle spallate al vecchio sistema, se non ricordo male. Allora, traffico e poi le risposte di Maurizio Crosetti per Luigi Pardo, subito dopo. Comincia a capire che non è un problema si tava o notava, questo è uno dei problemi. Convocati. Allora, sentiamo anche Enzo da Modena e poi Crosetti e Pardo. Enzo, dica. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao, dimmi. Ciao, grazie per la convocazione. Un saluto a quel disgraziato Pardo. Niente, solo questo per ricordare che a fine stagione abbiamo celebrato la banana famosa, ma al di là di questo voglio anche ricordare, porvi all'attenzione, dell'episodio che è successo in America per quanto riguarda il presidente di quella società di basket, che è stato Donald Sterling, presidente dei Clippers, è stato radiato, costretto a vendere la squadra, e questo è quello che hanno fatto gli americani. Quindi mi aspetto che Tavecchio sia radiato per una semplice ragione, che il calcio deve essere restituito a chi del calcio in sostanza, sì. Mi riferisco e aggiungo alla cassa, perché di cassa politica ne abbiamo tante, certamente, certamente e aggiungo che Don Astene in quella vicenda la conosciamo, era stato è vero, era stato radiato e costretto a vendere un club che vale una montagna di milioni di dollari per delle dichiarazioni private, ecco, questo, delle intercettazioni. Questo è un punto fondamentale che fa tutta la differenza del mondo, nel senso che comunque tra le due cose è infinitamente più grande la cosa di Tavecchio. Certo. Tavecchio l'ha pronunciata in un discorso pubblico, quindi nella migliore delle ipotesi non è stato particolarmente furbo, particolarmente astuto nella migliore delle ipotesi. Nella seconda ipotesi è razzista o comunque gioca con questo genere di cose. Sterling è stato intercettato in una conversazione privata, se non è da un punto di vista di diritto si può anche discutere, insomma, sì, ma si è discusso sull'utilizzo, si è discusso infatti con tutto che sulla sostanza chiaramente non ci sono discussioni, francamente mi sembra anche un po' eccessiva quella situazione lì, quindi figuriamoci questa. Ma poi c'è anche tutto il resto del discorso di Tavecchio l'altro giorno, che è un discorso che non mi sembra, insomma, vabbè, ma quanto al resto sappiamo cos'è, poi sono dichiarazioni di intenti. Cross, cosa ne pensi? Beh, penso intanto che il CONI dovrebbe far sentire la propria voce, anche un sospiro, un sussurro, un aggettivo, un avverbio, un articolo indeterminativo, insomma, Malagò cosa aspetta? Deve assolutamente parlare. Sicuramente Tavecchio, lo ripetiamo fino alla noia, non può candidarsi, o deve ritirarsi o devono ritirarlo, non ci sono dubbi, e forse occorrerebbe però riflettere su chi lo esprime. L'ho detto prima, l'ho detto all'inizio, non è l'infortunio di un personaggio che gesticolava come Pappagone, non è soltanto un problema individuale, ma c'è dietro tutta una rete di interessi che esprimono, hanno espresso Tavecchio, sapendo di che personaggio si tratta, io credo, per potersi muovere più a proprio agio. Dopodiché, lo dico da lettore, non da giornalista di Repubblica, lo premetto, lo dico da lettore, vado in spiaggia stamattina, apro Corriere della Sera, un giornale importante che apprezzo e che leggo ogni giorno, leggo un'intervista a Carraro che difende Tavecchio, e allora mi chiedo, qual è il sistema che c'è dietro? Possibile che non si riesca a cambiare proprio nulla? No, fra l'altro la cosa più impressionante è che, al netto poi delle situazioni calcistiche, rivediamo spesso, ma insomma il mondo del calcio italiano a livello di Serie A esprime comunque la parte più viva e vitale della nostra vita imprenditoriale, cioè ci sono marchi. Adesso ieri la Fiorentina si è affrancata da questo tipo di discorso, ma sì. Il nome della Valle è un marchio che rappresenta l'Italia, il Made in Italy del mondo, lo fa molto molto bene. Ci sono grandi gruppi industriali italiani veramente all'avanguardia, ci sono anche ovviamente proprietari stranieri, che forse non è un caso che per esempio la Roma si sia dissociata da questo tipo di discorso, forse perché probabilmente Pallotta ha una sensibilità da questo punto di vista un pochino superiore rispetto a quella che c'è in Italia. Sì. Cioè quello che è giusto, secondo me, che va sottolineato il discorso che faceva Maurizio, è proprio questo. Non è soltanto appunto il Tavecchio che si vede all'esterno, ma è il fatto che sia difeso e che verrà difeso fino all'ultimo, secondo me, o forse fino a quando sarà difendibile. È difficile proprio. Adesso cioè, diventa, bisognerebbe trovare modo per fare la retromarcia. Già Zamparini, più che la retromarcia, ha messo la quinta con le dichiarazioni di oggi. Maurizio, sì. Quindi tu, per chiudere con Crosetti, tu pensi che adesso la responsabilità principale sia di Malagò? In questo momento chi può aprire il fronte della retromarcia, perché anche questo diventa difficile, tutti certo, sorpresi altri, adesso. Altri presidenti, altre persone che capiscano in un lampo di lucidità nel giorno in cui nascono i calendari, tra l'altro il giorno in cui nasce il campionato, che capiscano che bisogna riunirsi in una stanza, fare una bella assemblea di condominio e dire: questo signore no, cerchiamone un altro, se non è Albertini può essere un altro personaggio. Io ce l'ho il presidente della Federcalcio, io sceglierei Thuram, guarda un po', Lilian Thuram, sì, che sarebbe una risposta provocatoria, un uomo di calcio, di grande intelligenza, non è italiano ma chi se ne frega, siamo nell'Europa delle frontiere cadute da anni, di Schengen, e comunque deve essere un uomo di campo, non c'è dubbio, deve essere un uomo che ha sempre lottato contro le discriminazioni, deve essere un uomo intelligente e non di parte, dunque non diventerà presidente della Federcalcio, ma il profilo deve essere questo, devono riuscire a trovare qualcuno di credibile. Avanti il calcio luce. Italiano, prima l'ascoltatore faceva i nomi di Tacchi e Viali, il calcio italiano non è un calcio di sfigati, è un calcio all'avanguardia, è un calcio che è un brand nel mondo, apprezzato nel mondo, ma noi ci possiamo proporre con dei personaggi di così grande retroguardia, adesso al netto di tutti i discorsi sul razzismo, ma veramente, cioè non abbiamo sono loro stasera i migliori che abbiamo, cantava De André, ecco, cioè veramente questo mi viene da pensare. Abbiamo un calcio di grande intelligenza che esporta anche in anni difficili come questi, esporta per esempio l'allenatore che ha vinto la decima con il Real Madrid, uno degli allenatori più vincenti del mondo. Abbiamo una cultura, lo dico veramente, senza retorica e senza ironia, abbiamo comunque la squadra di Coverciano, dal punto di vista tattico i nostri allenatori, che esprime così tanto. Ma veramente ci dobbiamo ridurre in questo modo, e devono essere soltanto gli atleti a guidare il fronte di opposizione a tutto questo. Cioè, mi sembra veramente una cosa. Io che sono un grande ottimista, sono pronto a scommettere con voi che l'11 di agosto Tavecchio sarà presidente federale. Scommettiamo. No, questo come direbbe Crozza, questo non credo, perché no, ero sicuro fino all'altro ieri. Adesso questo fronte si sta sgretolando, non possono avere la cecità di farsi addirittura cazzare da Blatter, ragazzi. Blatter, come se fosse uscito dalla tomba, Ramisse secondo, e avesse detto: e no ragazzi, questi scriba, però noi quel sarcofago, ragazzi, bisogna chiuderlo un po' meglio, cioè non possiamo farci cazzare da Blatter, ragazzi. E una cosa, Maurizio, 20 secondi, il ruolo dei social network secondo me va sottolineato, perché tante volte, tante volte ne abbiamo sottolineato anche i pericoli. I social network ti possono far diventare da eroe a colpevole nel giro di 5 minuti con una violenza tremenda, quindi delle volte i social network sono veramente pericolosi. Qui però sono stati un grande antidoto, cioè qui hanno fatto una cassa di risonanza molto prima dei media tradizionali, che poi si sono lanciati su tutto questo, l'editoriale di ieri della Gazzetta, Repubblica, tanti giornali hanno preso posizione in maniera molto chiara e molto precisa, ma i social network hanno avuto un grande ruolo. Insomma, questa è, non voglio usare una parola troppo grossa, ma è un bel antidoto di democrazia, perché di fronte a una sparata così assurda, a una scemenza così gigantesca, c'è stata una velocità di reazione, uno stimolo a chi poi questo lavoro lo fa, e però magari scrive una volta al giorno sul giornale, non è che scrive ogni 5 minuti, che è stato da sottolineare. Quindi insomma, io sono, ti dico la verità, sono colpito dal fatto che così tanti commenti ci siano stati e così tanta gente di buon senso abbia espresso il suo sdegno per queste parole. Insomma, sì, è sembrata una bella dimostrazione di civiltà, no, di democrazia. Ma sai, Maurizio, una volta tanto i social network ha ragione da vendere, Pierluigi, non servono per far vedere Balotelli col fucile in mano, ma per denunciare una situazione, e danno anche la misura, se ce ne fosse ulteriore bisogno, di qual è il livello della temperatura della gente che segue lo sport. No? Sì, soprattutto avvicinano il mondo dello sport e non solo, a chi in qualche maniera ha la voce per dire le cose, per orientarlo, qualche volta per governarlo, ma compresi noi giornalisti che abbiamo questo terribile vizio di vivere spesso lontano dalla realtà, proprio noi che dovremmo raccontarla nelle nostre stanze, parlando tra di noi, scrivendo per i colleghi. I social network ci spiegano immediatamente che fuori dalle finestre c'è un mondo che si agita in un certo modo, che la pensa in un certo modo, che ci richiama ad essere vigili, attenti, puntuali. È possibile, lo stiamo capendo noi che veniamo da un mondo del giornalismo che sembra quasi preistorico, no? Nel senso che io ho cominciato a fare giornalista che c'erano ancora le linotype e le righe di piombo fuso, figuratevi un po'. Possibile che non lo capisca la Federcalcio? Possibile che questi signori dell'assemblea di condominio non si riuniscano oggi stesso, ogni minuto che passa, senza che questo signore si ritiri, è un minuto perso. Ma poi soprattutto l'altro minuto, dopo il minuto utilizzato per cacciare questo signore, deve essere il minuto scelto e utilizzato per scegliere il nuovo presidente. E ha ragione Pierluigi, il calcio comunque esprime molto. Basta mettersi un attimo lì e cercare, non è così difficile. Grazie Mau. Una cosa di 5 secondi finali, chiaramente non come presidente, mi piacerebbe molto che in questo momento così delicato la mamma di Ciro Esposito, Antonella De Ardi, avesse un ruolo, ovviamente se lo vorrà e con il pieno rispetto di chi nella vita, ci mancherebbe altro, deve fare quello che vuole, però mi piacerebbe molto che siccome in questi 2 mesi ha mostrato una civiltà, una maturità veramente strepitosa visto quello che le è capitato, ecco, mi piacerebbe che, visto che si parla tanto e siccome la priorità assoluta adesso è cercare di migliorare i rapporti tra quelle due tifoserie e in generale di intervenire un clima potenzialmente tremendo, che avesse anche un ruolo semplicemente di testimonianza, ovviamente se lo vorrà, ma ecco, questo secondo me, se il prossimo presidente federale è un tema che potrebbe prendere in considerazione, perché quella donna ci ha insegnato delle cose incredibili in questi 2 mesi e mezzo. Bravo Pierluigi, grazie ragazzi. Pier, con te ci sentiamo domani con Maurizio Crosetti alla prima occasione possibile, naturalmente quando lo vorrà. Grazie a entrambi. Beh, siamo quasi in chiusura, io faccio appena in tempo a, insomma, due minuti Sergio da Milano, Marcello da Roma, un minuto a testa. Rimane Sergio da Milano, dica. Sì, buongiorno. Niente, mi avete preceduto, nel senso che le cose ripetita che Juventus le vedrete voi. No, semplicemente una cosa, che noi stiamo dicendo delle belle parole perché effettivamente tutti condividiamo questa situazione, ma il problema qual è? Che chi deve decidere, che sono quelli che non si sono dissociati, a parte gli ultimi due, Fiorentina e Sampdoria, non hanno deciso, nel senso che andranno a votare, voteranno quel signore lì e non cambierà mai niente, e quindi a questo punto viene da pensare che in effetti, Sergio, io sono meno ottimista di Crosetti, cioè lui è assolutamente convinto, l'avete sentito anche voi, che questa strada non sia assolutamente più praticabile. Io credo invece che verrà trovata, io purtroppo da questo punto di vista sono molto pessimista, credo che verrà trovata una soluzione, certo una soluzione di comodo, di con scuse e controscuse, con ma no, ma avete capito male, avete letto male, ma guardate che cosa ho fatto. E alla fine, lunedì prossimo, esattamente tra una settimana, Carlo Davecchio sarà il nuovo presidente della Federcalcio. Ragazzi, vorrei tanto pagare il caffè a Pardo e a Crosetti e perdere questa scommessa pubblica. Vorrei tanto che il mio sia soltanto un retropensiero, sia soltanto un errore, ma io in questo momento ne sono convinto. Santo da Catania è caduto, speriamo che possa tornare. Manuel da Brescia, ma no, dobbiamo chiudere, ragazzi. Sì, buongiorno a tutti. Ciao Manuel, ci sentiamo domani. Ciao. Ci sentiamo domani. Va bene. Era sempre per Tavecchio. Sì, ma tanto il tema è buono anche domani, non ti preoccupare. Fino all'11 agosto. Fino all'11 agosto, ma anche oltre. Tanto noi siamo qui tutti i giorni, durante l'estate per un'ora soltanto, ma poi vedremo di farvi compagnia per un paio d'ore, come ormai è diventata abitudine. Allora, io ringrazio voi che ci avete seguiti, ma ringrazio Manuel Guerrini, Pietro Lacorte, Valerio Rocchetti, Claudio Siattone e naturalmente Franco Piantanita, autore di questo programma. Ciao a tutti, a domani alle 2.